allucinanti, avrà più di 40 anni. Ah, secondo me sei un beato, Virgilio, in confronto a Gianni Antonio, ma per abbassare un po'. No, perché sto gridando, capito, c'è la televisione. Cazzo, un beato, sì, mamma mia, mi stai facendo tutti, no? Questo è il mio mitico 140, preparato turbo, anche perché qualcuno ha detto che io non so fare un cazzo, capito? Ma te ne sei privato di cose, non è vero? Io vabbè, le cose che so fare me le faccio io, poi quello che non so fare faccio fare ai tecnici, ai preparati, a quelli che parlano con la lingua e poi non ce ne drobbiamo con guru. Ma lascia perdere, io ho visto che tu i consigli che mi hai dato in certe cose, cioè, sono andati positivamente bene, cioè, ma lasciamo riperdere, tanto niente, non capisce niente. Io Antonio, non mi sono mai vantato di niente, non mi avete mai sentito che sono un tecnico, che sono le cose che mi hanno insegnato me le faccio per me, se me le chiede qualche amico le faccio per qualche amico, ma non ho mai riparato una radio a nessuno, capito? Questa era una radio, è nuova, di vecchia, mai usata in AM, siccome me la so fare, me la sono fatta per me, me la tengo per me, ma finiti giù, non voglio più parlarne di queste cose. Chi è tecnico rimane tecnico, io non sono un tecnico. Ma lasciate perdere, eh. Eh, oui. Pacarizzai, eviti non è alfabetato di quello, ma io dico sempre, ma guardati di casa tua, guardati, chissà come sono, mamma mia, Dio ce ne scampi, chissà che personaggi sono, e tu vai a criticare, cioè, ma io dico sempre quello, ma guardati, guardati tu, prima guardati tu, poi puoi andare a dire le cose agli altri, chissà che personaggi sono, Dio mio santo, e poi vanno a parlare, ma vai caga, vai. Questo è un attacco radiantistico, non è un attacco di fuoco di casa, di quello che c'è a mio, grazie a Dio, ce l'ho, non ho problemi io, niente, grazie a Dio non mi posso lamentare di nulla, capito? È un attacco radiantistico che è già da tempo che succede, quindi non ti preoccupare, è una cosa che già vedo io, non sto assolutamente mettendo in mezzo a nessuno, loro pensano che io non so niente, io so tutto, non ti preoccupare, sono informato di tutto quello che si fa, nonostante non faccia nessun movimento strano, già colpisco al momento opportuno, non ti preoccupare, a voi ho baciato tutte le macchine che vanno in capo, hai i quattro imbecilli, anzi tre sono imbecilli, non so quattro. Vabbè, se lo dico artistico, no, chissà loro come saranno, facciamo anche che sia la radio, chissà in casa di chi combinano, chissà le cose scorrette che fanno, chissà tutte le cose che fanno, poi vanno a criticare gli altri, ma va, lascia perdere. La gelosia, hai capito? La gelosia, la bugada, Roccia, Santa Lucia, non ti dico altro, vabbè, io sono al mio posto tu. Chiuso il discorso, come una futura. Aspettiamo la prossima mossa, poi vediamo. Vai Gianni, riprendi. Rigore, vuoi farsi di ma fregatene, fregatene. Oh, iui. Pace bene a tutti. Rigore, no, rigore di goccia. No, calcio l'angolo, ma era fuori gioco. Bella partita, veramente, minchia. Io, ora, sono partito... Il proprio del mio genere, stamattina abbiamo preso l'aperitivo assieme, siamo tutti e due Juventini, ho detto non vieni a casa la stazione, no, ci vengo, ma vado a casa. Ho detto che parla da lì, se li guardi a 6-3, perché il Barcellona ha vinto a Torino 2-0, capito? Ha vinto 2-0, ma con una Juve, una preparazione tecnica allucinante, cioè una squadra dei Calabri, ma questa partita a Barcellona veramente molto bella, meno 4-0. Fatti guardare, guarda, ma la partita molto bella, molto aggressiva. Gianni, come mai c'è ancora il radio? Non l'hai fatta la nanna? Gianni, dormendo stai. Come tra le 2:30, alle 3. Ma oggi non c'è nulla, al televisore, adesso attacco la radio. Perché c'è quel programma, c'è Rai 2, il collegio? Non l'ho mai visto. Che bollarello. Lui praticamente parla di un collegio di ragazzi giovani, ma nei gombini, tutti rigorosi, lui 4-0, Bonucci 4-0, uscio cazzo, madonna santa che si usa il Barcellona, Bonucci hai visto? No, io guardo programmi tipo Tu sì che vale, se quello di Hunziker, guardo programmi così, perché il film non riesco più a seguirli, mi trovo. Dico, c'è un Ronaldo genia, un difensore genia, c'è qui, fuori gioco, vediamo, c'è dal 4-0, allora fuori gioco. A fondo scala, sì, ok. Guarda, allora, 10, 20, 25 watt riportate, cioè, quasi 50 modulati, una bestia 840 l'ho fatto diventare. C'è una ricezione, una trasmissione che è una cosa favolosa, veramente. Non l'ho soffatta per me, ma due resistenze variabili ho toccato, due stronzate che ci ho segnato, niente di che, insomma. Cose che mi hanno insegnato a fare, non di tecnica, ma così di hobbistica, basta. Quello che ho sempre fatto, quando compravano i 140 sassoli e venivano e li tiravo su la radio e la potenza e i picchi positivi. Quello che mi ha insegnato ISO 0QMW, nonché CH23 richiamati. Basta, non so fare altro ancora. Non mi vanto io di saper fare niente, io non so fare nulla, solo queste due tronzate. Fuori gioco, Claudio, hanno annullato. Fuori gioco, vabbè, l'ho visto. mito che luce la leggermente più avanti, vabbè. Però una bella azione anche quella. Dunque, no, perché sicuramente io sono più favorevole a te, capito? È per quello che mi arrivi così forte. C'ho il varco aperto, ma però anche, guarda, anche quando vado nella zona di su, capo, sono meno aperto verso Butudorra che nella zona tua, allucinante. Mi ammessi, mi hai due scene, ragazzi, non fa continuo un po'. A me lo dice tutto guardato. Ecco, allucinante il vicino. L'ho visto poi già con i buci, la banca Ronaldo, normale, con la propria. Riprendi già. Ripeto, stavo guardando il telefono. Mi hanno scritto del messaggio, stavo leggendo, tuia, mi hai beccato proprio in piena. E quindi domani sveglia presto. Ma vengono a prenderti. Devo andare da un amico mio, per andare e andiamo insieme, perché sennò già salivo io con la mia Batmobile. A lavoro con la bicicletta sempre? Sì, sì, se non ho... cioè se non piove sì, ma adesso no, non la voglio utilizzare perché sta piovendo, se no mi porta a beffa. E dopo panne elettrica può causare dei cortocircuiti e cose, no? Con fai la campanina che ha dubbio pensiero? No, io vado in un'Ibiglia, cioè non è quello il problema è che se no, se poi di Chicago chissà, già mi ha fregato l'altro giorno scendendo da coso lì, qua dove c'è il Carrefour, mi ha scondizzolato, ha detto, mi andrà piano quando c'è piove. Ma sai cos'è che ti fanno le Chicago così? Molto i passaggi pedonali che sono lisci ti fanno scivolare, anche in moto ti fanno scivolare quando piove. Devi stare attento a non frenarci sopra perché se no riscicheggi. L'ho capito, ti ha scolettato. Io non vado nei passaggi pedonali, io vado nella strada normale. Ah, perché la strada normale non uso passaggi pedonali? Ah, tu, cazzo ti scegli? Ah sì. No, aspetta, avevo capito un'altra cosa, avevo capito non proprio passaggio pedale. Lo so, quelli lì che si fanno in Liscigà a padre. Ma non è in quel punto che mi è successo, no? Mi è successo nell'altro che non c'erano strisce. Le strisce fanno in Liscigà, infatti c'è scritto anche nei quiz della scuola guida c'è scritto così. C'è scritto. E io ero giù di Chicago pure a piedi, anche senza bicicletta qui. Allora, ciclomotori leggeri, in tutte le moto, diciamo, nel strisce pedonale bisogna stare attenti. Ma un giorno me l'ha fatta Sant'Orsola, sembra così, ma con quella bici bisogna stare attenti, se no fai male. Dice i bideggi, A me me l'ha fatto tornare da Portotesi in moto, ho fatto la curva che c'è da via dalla Budivudi che porta in via Pirandello, quella curva che c'è, no? Dovevano tutti a correre se c'era presente. E lì ci sono dei passaggi pedonali che sono dietro la curva, come ho girato, mi si è girata la moto. La morte è mala, bisogna stare attenti, bisogna stare. Sto dicendo che a me con la bicicletta un paio di volte, ma una bicicletta, che c'è bicicletta bisogna stare attenti. O c'è chi cammina, quando la lanci, cazzo non la fermi più. E poi bisogna stare attenti perché è maledetta. Ma che salita fa? Salita no, ma in discesa è andato troppo. Quanto ti fai in salita? Io sono riuscito a farle fare anche 25. Però c'è 30 km. Che ce l'ho? Ma molto costa, no? Io ci... per la cronaca c'era una sega circolare dove ho trovato quel monopattino. Anche a Luca se interessa, una sega circolare se ti interessa. Oh, vai. C'è una sega circolare, ma per legno. È quella che c'ha i denti grandi. E bisogna vedere se funziona. Io cazzo provare non l'ho buttato a provare, però c'è a fianco al cassonetto, c'è magari qualcuno se l'ha sbarazzata, dice cazzo uso la mola, io ho pensato questo e magari me la tocco dalle palle e uso la mola, è un po' grandetta. Ce l'hai tu? No, no, è vicino ai cassonetti ancora. Tanto l'hai mai appigliato roba? L'altra volta c'era un monopattino che c'aveva la luce di dietro accesa, mi sono anche fermato, c'erano delle buste sopra. L'ho tolto le buste, ho provato a vedere se camminava, se camminava me l'avrei preso, però visto che non camminava l'ho lasciato, era nuovo, nuovo, nuovo. Si fatto scarico. No, sicuramente c'era l'interruttore, magari c'era qualche filo staccato, magari Luca se lo guardava lo poteva anche aggiustare. Sicuramente sì. Aspetta un attimo. E lui, questo è il 550 alimentato con quello da 5 ampermi. Ha le bomba. E a voi, aspetta un attimo, arrivo subito. Scappa. Via. Già, comunque è roba buona che ne ho trovato anche io. Sono andato a provare per funzionarla. Sì, c'è gente che magari si svolta i garage e si butta la roba che serve. Dai, io so di gente che ha trovato anche a Parigi. Sì, in piazza dei Sini, Mario Massa gli ha trovato uno portatile, un altro da base, quando caricava la roba in piazza dei Sini. Sì, apparecchi buoni. Allora io dico, ma perché buttarle, cazzo non l'hai pagato? Ma c'è gente che non è fregata, se non interessa più davvero, qui a dire là, per prendersi le lave dei piedi. Anche io ne ho buttato apparecchi, ma che non funzionavano. Apparecchini che non funzionavano più davvero. Ricordi già il trasformatore di corrente? Il trasformatore? Il mio? No, quello tensione, come si chiama? Quello che tiene la tensione costante a 220, te lo ricordi? Si attaccava alla presa, poi lì attaccavi il televisore, le cose che dovevi attaccare. Ah, lo stabilizzatore. Ne ho trovato uno nuovo, nuovo io, sotto casa. Si mettevano sotto al televisore, quindi ben ricordavo la lucetta rossa. Sì, è nuovo o nuovo? Era un po' graffiato il coperchio nero, l'ho smontato, l'ho lisciato di nero, nuovo o nuovo? L'ho messo sotto, che sono gli alimentatori sono attaccati lì. La presa è attaccata a 220, io spengo quello e si spengo l'alimentatore. Perché, attenzione, l'ingresso, l'alimentazione a 220 costante, l'ho provata col tester, ok, per dire, nelle prese del salone c'è sempre 2.17, 2.18, 2.19, qua è 2.20 stabile. Quindi funziona, solo che adesso è uno strumento che non si usa più. E io comunque siamo vicini in modo radio, un ascolto, non ci vuole, come la foto. Io invece una volta ho trovato, adesso secondo me l'ho rubata, ho trovato una griglia, una graticola di quelle elettriche. Ancora tutta chiusa dentro la scatola, l'ho aperta, c'era il cielo, fa tutto quanto, nuova, nuova, nuova, secondo me è stata rubata, magari l'hanno seguita e l'hanno messa lì per sbarazzarsi. No, beh, io c'è uno zingaro, insomma, un'anale, quelli che fanno il rame, quelli che ogni tanto passano anche a cassonetti. Io l'ho conosciuto, mi hanno buttato la bombetta, ho detto, ma tu passi tutti i giorni qua? Sì, sì, io passo tutti i giorni, vorrei se c'è roba che si può recuperare, può lavorare. Però fatti volare domani a quest'ora, che ti va un po' di roba. Sono solito, non so, mi è sceso un forno, due forni a microonde, funzionanti vecchi, che ho cambiato, per non buttarli a messi massati. Due forni a microonde, poi mi è sceso tutto l'alluminio che avevo delle antenne. Mi ha regalato una pecca di caramel. Sì, ha detto no, io pagare, ha detto no, tu fumi, sì che fumo, tu sigarette fumi, camera, aspetta qui, ha detto vai tranquillo, non ti preoccupare, vai, a te serve per lavorare, io non ho problemi, vai tranquillo, no, tu aspetta qui, se no io offendere, ha detto va bene, è tornato un quarto d'ora e mi ha portato una pecca di camera. Ma che cosa le guadagna? Sto dicendo, ma per dirti che a volte trovi, capito? quando tu hai roba, mi ha lasciato il numero di telefono qua. Ma così quando c'ho roba ti chiamo, infatti adesso sono un po' di tubi, roba vecchia che ho tolto, ho fatto un'altra direttiva che ho fatto a pezzi, ci saranno forse un chilo o qualcosa di rame, l'ho già fatto i tappeti e gli ho messo un barattolo. Adesso, dopo prima dell'effetto lo chiamo e glielo ho capito. Va bene, dai. Già va bene. Una mano la fa là, che due te la fanno la faccia, dice Papolino. A parte a vabbè. Curuetti, devi venire mangiare. No, ma già ci danno da fare già su quella roba lì. Ma so guru che sono anche iscritti per svolgere quel tipo di cosa, perché sennò molti non ti fanno entrare, mi ha scaricato quella roba. Mi ha preso il coso del Porsche, ma tu fai vedere il Porsche, tu cazzo mi devi leggere la mano, no? Non me la leggi, peccato che se no poi mi metti in difficoltà e magari mi dici qualche cosa brutta. No, mi giuro del Porsche, ti faccio un braccialetto e rame per i dolori, e poi fammelo, quando vieni portamelo. Così si dice. Allora sai quale si usava, Claudio? Quelli fatti col giro di alta pensione, di quei figli che passano la corrente di alta pensione, il rame che c'hanno lì dentro per fare i braccialetti, quello lì dice che ti fa passare i dolori davvero, perché è passata energia elettrica ad alta intensità. Loro fanno queste cose, capito? Fanno queste cose loro. Fatti una barata, buffa una luce. Luca, me lo stai guardando, quest'uomo di 40 anni? Si asciuga, sta allucinante che il gigetto buffa l'occhio. Non ho visto la cotonesia, ma picca malacca, boom! Sì, già, non c'è problema. Beh, io quella che ho a muro, perché io ho una barra sarà lunga 20 cm, ma sono fatta a muro. Il rame che mi ha dato l'elettricità quando lavoravo, tolta da un impianto elettrico, capito? L'ho tolta da lì, ma a me è già forata, ci sono gli occhielli, le viti, e ci sono i giallo-verdi che vanno alla radio, e quello è molto importante, proprio per non fischiare i microfoni, per non fare rientro di ORF, capito? È un piano di massa. Sì. Ho cancellato a muro con la barra di rame, capito? Fa così, no, non si fa fischi con sta roba qua. No, un po' perché scarica, le retrofatte che scaricano lì, capito? Sono i giallo-verdi collegati all'HF, sono i giallo-verdi con gli occhielli e sono avvitati a questa barra di rame che è cancellata al muro, sotto la scrivania, non si vuole niente, capito? È molto importante avere impianto così, perché così non ti fischiano, non hai rientro, non ho mai fatto, ho avuto fischi con 60, a molti le fischia perché le fa rientro, un microfono molto particolare, ma me l'avevano detto e l'avevo fatto così, capito? Ho capito adesso. Eppure l'avrei voluto vedere questo impianto, come è fatto. Il mio? Sì. Se mantieni il cane, il mio non ti fa quello che ha fatto Gianni. Il mio deve staccare anche, tranquillo. Tu immaginate che non ha fatto entrare il mio cognato. È un anno, forse, 9-10 mesi che non lo vedeva, non l'ha riconosciuto. L'ho dovuto andare via, non l'ho fatto entrare dentro casa. Mamma mia, no, l'avrei voluto vedere qualche foto, qualche cosa, come ha fatto questa barra in rame, perché mi interessa il discorso. Ah, ecco, la faccio la foto. No, perché so che Tyson è rischiato molto, Filippo non ti dà tregua, Filippo ti musigheggia. Se non avevo tolto il mio cognato, mi era stacca il pantalone. Mi si è agganciato sotto la caviglia, cazzo io ero, giù mai la musica è una cosa terribile, mio, è terribile, se no come ti presenti alla porta, quello delle pizze ha cambiato, la porta ha ordinato le pizze, l'ha giunito a Daniele Giara, Daniele ma che pizza gli ho fatto in mano, no, quello che è venuto l'altra volta non ci viene più, ha detto, ti sto mandando un altro, ma giù mai rimani anche. Mamma mia, che amaro. Avete parlato in due. Avanti già. Ho detto che questi cani sono stati attenti. Ma tu lo sei aggiornato, te lo l'ha agganciato al braccio. Figurati. No, Filippo di Battilazzotto. Questo ce l'aveva dritto. Siccome ancora ce li hai, c'è 28-30 kg, cazzo, di cui a terra sei morto, sei morto, è un casino. Non è roba mia, se no già lo posso, già lo so qui come si parla a Mansueto. Ho capito, è chiaro, ci sono io, non è quello il problema. Io quando esco, lo sai quando le persone, gli armadi appunto prendono il popolare, non capisco il perché. C'è uno in particolare che non abita nel mio palazzo, lo comprano tutti, quelli che abitano giù, evidentemente mi sente qualcosa che non va, qualcuno lo ringhia forte, lo abbaia forte. Dico, cioè, quelli non si preoccupa, il cane è guinzaglio, però tranquillo, no? Non è sciolto il cane, ci sono io, il cane è nato per abbaiare e quindi è giusto che abbaia, sì, ma abbaia solo a me, e vuol dire che non gli è simpatico, cosa vuole che le dica, però il cane è guinzaglio, quindi lì ti assereno che non succede niente, sono fatti così, vanno a intuito, capito? No. Bisogna stare attenti, bisogna stare, che sono imprevedibili. Stare attenti. Sono imprevedibili, soprattutto quel tipo di cane. È imprevedibile che combini qualcosa, e quindi bisogna stare anche il guinzaglio corto. Tu hai finito la partita, 3-0 secco. E potrebbe essere un 4-0, vabbè. No, è bella questa qua. Abbracci tra Buffon e Messi e scambio di maglia, quelle cose, questa è una bellissima partita, bella, questa è una partita sportiva, va bene, dai ragazzi, io però vi saluto, vado a vedere il salone, che sto meglio, vi abbraccio a tutti, buon proseguo, se proseguite e ci sentiamo domani, ok? Ciao! Ciao, ciao, ci sentiamo, ma avanti! Ciao, buonanotte, grazie, ci sentiamo alle prossime domani. Luca Monello, è Monello Tyson, Monello Luca Andrumi. Ma meno male che non mi ha morsicato già. Ha fatto solo la vinta, dai. Lo fa per avvisarmi. E vai, te l'avevo detto, tu aspetta che si avvicini, quando scodinzola, invece che non me la corretta, cazzo, io conosco il cane come è fatto, e deve essere lui a decidere di fare amicizia, ha visto lei con Sara come ha fatto, era tra mani. Sì, ma boh, è strano, cara. Cioè, e poi quando l'hai sgridato è fuggito, così è. Mi sei rotto la lacca. Perché hai capito che ha sbagliato, capito? Tanto lo rifà. Poi devi stare attento, io cerco il guinzaglio lungo, però glielo tengo corto quando vado vicino alle persone e cose. Poi quando c'è campo libero, allora glielo faccio il lungo, capito? È un po' pericoloso, è imprevedibile. Purtroppo sono dei tipi di cani che sono imprevedibili. Ma sai come lo chiama il ragazzo di Manuela? Lo squalo. Lo chiama? Lo squalo. Quattro, perché lo chiama così? Il musichese. Ti fa vedere i denti. Hai visto come ha fatto? Vabbè, dormito, mi sta arrossando. Che ha fatto? Ha addormentato il taglio. E gli sta arrossando anche. Non è azzurrato. Scusa, ma dorme con te? E allora? È buono. E con tuo figlio com'è? Tranquillo? Sì, gioca tutto, sì, tranquillo. Come i figli sono tranquilli. Anche con la mia moglie va tranquillo con tutti. Quelli di casa li conosco. Sì. Quelli di fuori casa invece, ma però è... Già, sempre imprevedibile. E attenti. E infatti a Magano Gaglietti lo usano dentro la camera e non esce. No. Ah, vabbè, il problema è che con te non ti sei mai girato, no? No, assolutamente no. Se no vedi che piglia cappiotti. No, io non lo picchio, io glielo faccio capire senza picchiarlo, perché i cani non si picchiano. Bisogna puntare il vito e dici, non si fa così. lui al vice lo sa che cosa, che conta da giù è contento, si mette a saltare su di vano, si diventa a pasta, si mette a girare attorno alla stanza. Quando è scontento invece tratta la bocca. Poi bravo, tutto di cane, sempre ben dire pare. Oggi a sera abbiamo fatto, mi devo che abbiamo fatto, no? Quando tu lo vedi scodinzolare, allora piano piano ti fai lavorare la mano, ma tutta che ti onore, è come che fa amicizia a cui no, non ti fa più nulla. Insomma, lui l'ha fatto, però poi alla fine si è sciuffato. Io non mi fido più di Tyson. Perché ti ha visto anche che un po' c'è paura, capito? Ma paura non ne ho, non è così, perché paura non ne avevo. È lui che ha puntato male. Ma non cadrò più, sì. Beh, sono quasi 23 mesi. Oh. Beh, eppure io, dai, che domani mattina mi va a fare molto presto. Le vitamine sono udenti, ecco il giornale. Dai, buonanotte, buonanotte a tutti. Dai, mi spiegavo così gonfo perché devo per forza dormire, se no è un casino. Ciao, buonanotte a tutti, buon lavoro per domani, ciao. Sarei voluto restare ma non posso perché devo andare a lavorare domani. Ciao, buonanotte a tutti e a tutti e a tutti. Ciao. Ciao. Un pochettino di acqua. Buonanotte.